Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano. Peter sottofondo. Tanti perché fratesti. La Ferrari vince il Gran Premio d'Australia. Apre così la stagione 2017. Sebastian Vettel, lo possiamo dire, domina il Gran Premio d'Australia. Un boato incredibile accoglie questa vittoria. Un inverno di silenzi, ma un fragoroso rumore nel conquistare il successo che mancava da Singapore. La festa è tutta rossa, tornano i sorrisi in casa Ferrari. Sei donna pericolosa. Grande Sebastian, bravissimo, un martello, complimenti. Forza Ferrari ragazzi, questa è per noi, tutti noi, qui in pista ma anche in Maranello. Grazie a tutti, grazie, grande lavoro, grande macchina, con calma, grazie. Grazie. Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, ed è la notte la mia stella. Possiamo dire che quest'oggi la Ferrari e Sebastian Vettel hanno avuto un weekend perfetto? Il weekend perfetto è quando hai due piloti sul podio. Io guarda, sono contento per tutti i ragazzi della squadra perché ho lavorato con modestia, con umiltà, con grande professionalità, soprattutto i ragazzi a casa, quindi e quelli qua. Quindi sono contento per la Ferrari. Mi hanno detto la Ferrari di tutti, questo è un successo di tutti. Sebastian, how sweet did that champagne taste today? I'm usually not a big fan of champagne, but on the podium it tastes good every single time. Don't know why. So it tasted very good. I hope there's something left. I'm not sure, but I'm sure we'll find other bottles. Regina di cuori. Oh, io voglio sapere da voi chi si è alzato questa mattina alle 7, che poi per un scherzo del calendario erano le 6 di mattina. Beh, chi non l'ha fatto si è perso una grande cosa, e cioè la promessa di una stagione di Formula 1 in cui non solo non avremo da annoiarci, ma magari possiamo anche portarci a casa qualcosa, portarci, dico, noi tutti che tifiamo Ferrari, ma magari c'è anche qualcuno che la Ferrari non la tifa. 800 24 00 24. Dopo parliamo anche di motori, del closing del Milan, di barzaglie della foto Galeotta, però dateci l'apertura per quello che è successo questa mattina all'Albert Park di Melbourne, dove Sebastian Vettel ha battuto la Mercedes di Hamilton. Toto Wolff ha dovuto fare il pugnetto sul tavolo perché era arrabbiatissimo. Carissimo Carlo, sì. Aveva ragione Leo Turrini, eh? La Ferrari si chiama SF70-H, che sta per... Hai visto mai? Sì, però l'altro giorno ha detto che stava per ai. Leo? Io invece avevo capito che quella famosa H sta per ha già vinto. Ma sei un volta gabbana come pochi. Io vorrei dire, sei un volta faccia come pochi. Sempre, caro maestro Genta, in coda sulla Pero Cormano, dove ci sono tutte le Mercedes bloccate, perché è stato uno shock, un virus che si è diffuso fra tutte le vetture dell'azienda di Stoccarda. Per quanto possa sembrare difficile da credere, ebbene sì, li abbiamo battuti. Salutatemi Angela Merkel e tutta la cancelleria, il Reichstag, il Bundestag, tutto quello che volete. Quanti giorni erano? 500? Allora, 553, erano 18 mesi, perché era da Singapore settembre del 2015. State a sentire. Erano 7 anni che la Ferrari non vinceva la prima gara del campionato, Bahrain 2010. Come finì? il campionato, purtroppo sì. Alonso lo perse bloccato nel traffico di Abu Dhabi, dove adesso c'è Pardo là a fare il vigile, lui che sta smistando appunto il transito in queste giornate, fa le sabbiature Pardo, io non capisco, poteva andarsene in Qatar a incitare Valentino Rossi per stasera, no? Comunque al di là di questo, erano 10 anni che la Ferrari non vinceva Melbourne, ed erano ormai 5 stagioni che non avevamo un pilota della Ferrari in testa al mondiale, perché l'ultimo era stato Fernando Alonso appunto tra 2012 e 2013. Insomma, è qualcosa di clamoroso, di bellissimo. Poi ci dovremo sempre chiedere, come faceva il Manzoni, che era un collega di Genta, di Capuano, non certo mio, che non sono all'altezza, come era Gloria, punto interrogativo. Ci basta aspettare un paio di settimane per scoprire se c'è qualcosa. E lì scopriremo l'arcano, perché questa è una pista strana. Attenzione. Hai visto mai che sia vera Gloria? Sì. Il del mondo 2017, l'ardua risposta. Sì, però così è un po' semplice, Leo. Io devo dire che però per i tifosi ferraristi, per tutti gli italiani, l'immagine più bella non è Sebastian Vettel, il podio e tutto, è quel pugnetto di Toto Wolff, dai. Pugno di Toto Wolff sul tavolo. Hai perfettamente ragione, perché c'era anche un famoso comico che diceva fatti e non pugnette. Io adesso non voglio riferirmi a Toto Wolff, ma è un fatto che per la prima volta dopo anni la Ferrari andava meglio della Mercedes, era più forte, soprattutto adesso vi chiedo scusa perché questo è un discorso tecnico, è la prima volta dopo 4 anni che la Ferrari in pista riesce a sfruttare le gomme meglio della Mercedes. Vero. Voi dovete riguardare i giri iniziali, quando Hamilton era davanti e Seb dietro, e vi rendete conto, quindi fino al pit stop del nero voglio dire, che Hamilton non riusciva ad andare via, doveva guidare impiccato per cercare di scrollarsi di dosso il ferrarista, e in questo modo ha usurato proprio le scarpe, come si dice in gergo, prima della SF70H, che sta per ha già vinto, no? E allora d'ora in poi, per tornare alla vostra domanda su come andrà a finire la stagione, bisognerà capire su altre piste, perché questa più probanti, su altri tracciati, se la Ferrari sarà in grado di confermare questa supremazia. Aggiungo una cosa a beneficio del mio amico maestro manzoniano Genta e anche di Capuano: è vero che questa non è la pista, diciamo così, standard, ma attenzione, tranne Fisichella, che ci vinse con la Renault nel 2006, chi vince a Melbourne ha sempre vinto il mondiale. Hai capito. Io non so se bisogna mettere le mani sopra o sotto il tavolo. Invitando tutti quelli fermi su Rapero Cormano bloccati dalle Mercedes a toccare ferro, acciaio e quant'altro. A tenere le mani salde sul volante. Fate attenzione amici di Radio 24, perché adesso la Gina, come Vettel ha chiamato la sua vettura, la Gina Ferrari, sa perché? La Gina va in Cina. E poi se volete vado avanti e vi dirò, è una Ferrari una e Gina. E a questo punto voi mi chiederete, ma perché il tuo idolo Kimi Raikkonen è arrivato quarto a 22 secondi al compagno di squadra? Chiedetemelo. Tra l'altro, perché il tuo idolo Kimi Raikkonen però ne ha presi 22? Perché è anziano come me e l'ora legale, capito, riposato meno, fastidio. Ci ha un po' indebolito. Ma anche perché li ha presi quasi tutti all'inizio, poi dopo si è stabilizzato. Si è svegliato in ritardo. Aspetta che saluto anche Giorgio Terruzzi, un altro che questa mattina ha puntato sicuramente la sveglia. Ciao Giorgio. Buongiorno. Ciao Giorgio. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, tenere le mani sopra o sotto il tavolo? Hai sentito Leo Turrini che ha detto che vince a Melbourne, vince il mondiale, a parte Fisichella. Beh, insomma, io non lo so. Di certo è una vittoria con dentro delle concretezze. Io sono molto contento per Mattia Binotto, che è stata una scommessa circondata da scetticismo. Bisogna dire che, così come l'anno scorso Marchionne ha preso un topicone parlando prima dell'Australia, quest'anno è stato premiato, perché la scelta di pasta squadra con le risorse interne, con un coordinatore così silente, per bene, lavoratore, molto capace di mettere insieme le persone e le risorse, un bel segno l'ha dato. Poi dopo io ho anche persino sospetto, considerando Melbourne, che questa, che gli elementi positivi di sta macchina possano anche venire fuori un po' meglio su piste vere. Però è un po' presto per dire come andrà. Se non altro è un mondiale spalancato, è cominciato bene, tutti avevamo bisogno di un po' di fresco, di smalto, e questa domenica l'ha dato. Sì, una ventata d'aria fresca. Vi tengo lì ancora un minuto, almeno per quanto riguarda Leo Turrini. Abbiamo il traffico, Piero Cormano e dintorni, poi torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. È stato un weekend fantastico, non scorderò mai. L'obiettivo, ho detto ieri, era quello di finire dodicesimo, pochissimo dai punti, quindi dai, sono contento. E adesso anche contentissimo soprattutto per la Ferrari, che è ritornata nel primo gradino. È un weekend perfetto. Perfetto, infatti. L'italiano è tornato in Formula 1, la Ferrari italiana è tornata a vincere. La mano sta bene? Sì, sono troppo emozionale come gli italiani. Sei un po' italiano anche tu, oggi è la giornata degli italiani. Lui ha fatto l'esordio dopo tanti anni. La Ferrari ha vinto, un po' italiano. Ma per lui è una bella prima gara di entrare sabato e fare così. Chapeau. Wolf, più che un po' italiano, era un po' arrabbiato, Giorgio Terruzzi. L'abbiamo eletta l'immagine della domenica, quel pugno scagliato. Però è bello vedere una persona che in qualche modo, pur avendo vinto tanto, si arrabbia. Io sono dell'idea che uno che fa l'agonista, quando perde, debba arrabbiarsi. Sì, è piaciuto, a me è piaciuto lui che si è arrabbiato. Ci sta. Ma la cosa, secondo me, la cosa più straordinaria di questa giornata è la storia di Vettel, perché sto ragazzo che viene da un anno così pieno di ombre, no? L'ultima volta che l'abbiamo sentito in voce via radio cristonava in inglese contro direzione corsa, oggi è tornato, cioè come se lui nel momento in cui ha a che fare con della buona stoffa riluce, riprende, diventa uno che sa gestire, sa vincere, sa fare, no? Di questo ragazzo abbiamo passato mesi a parlare in termini un po' perplessi, addirittura in questi giorni, insomma, prima che cominciasse il mondiale, nell'immediata vigilia si parlava dei dubbi sul suo contratto, sul suo futuro, e in due ore rifiorisce, risplende. Si è ripreso tutto, si è ripreso la Ferrari, si è ripreso il futuro. Sì, però io volevo fare una domanda ad entrambi, che è questa: abbiamo sentito Giovinazzi, finalmente torna un pilota italiano in Formula 1, una giornata molto italiana, l'immagine che colpisce, non voglio essere retorico perché non lo so, non mi piace la retorica, però vedere tutto il moretto che canta l'inno di Mameli, insomma, uno dei segreti forse di questa Ferrari potrebbe essere anche una squadra, quella della pista, interamente italiana. Leo? Ma guarda, io sono d'accordo, nel senso che sostengo da sempre che la Ferrari non è una macchina, non è neanche un brand. La Ferrari è un sentimento nazionale popolare. Ma voi non potete immaginare, in questo ultimo mese, dopo gli esiti delle prove a Barcellona, io dovunque andassi trovavo gente che mi fermava e mi diceva: ma allora ce la fanno, anzi ce la facciamo, è la volta buona, è vero che sono così forti, è vero che possono battere la Mercedes. Cioè, la Ferrari è una cosa che tanti, magari un po' snob, certamente non Giorgio, che saluto, un carissimo amico, anche perché credo di avergli scroccato intere specchie di sigarette invece di trasferte assieme. La Ferrari è una cosa che davvero anche persone che non sanno distinguere un cerchione da una biella, in Italia quantomeno, sentono come propria. Quindi quello che dicevi tu, Carlo, non è retorico, è vero. Io ne ho viste di ogni, ormai voi sapete che eravamo io a Bebe Bichila, a Sotomayor, eccetera, la rivoluzione di Cuba nel 58, però quando vedo la scena di Vettel che si butta tra i meccanici e poi questi che cantano a squarciagola Mameli e così via, sento quel brividino che è la Ferrari. C'è poco sei da fare. Un sentimentale, no, ma, sei ma un sentimentale. Anche perché vi ragazzi. Vi chiedo scusa. È una roba che penso sia condivisa da tanti. No, ma anche perché, volendo essere sinceri ed eleganti, dottor Terruzzi, insomma. Il sorpasso ai box, Vettel è uscito da quella corsia dei box davanti ad Hamilton per un pelo di topolina, ma sono sempre così queste cose. Però veniamo da molte corse in cui uscivi dai box dietro, sì. Cioè il colpo è stato quello lì, no? Perché quando c'è stato lo spariglio, perché noi non dobbiamo dimenticare che dentro l'attesa e il desiderio di rivedere la Ferrari vincente che descriveva Leo, c'era anche uno scetticismo, come dire, di fondo, una sorta di preparazione a rivedere qualcosa di già visto, no? Come fai a non essere scettico, Giorgio? No, ma infatti, quindi c'è, cioè, dentro quella uscita dai box davanti, secondo me c'è stato poi proprio il segno di un qualcosa di diverso, di cambiato. Poi possiamo star dentro a dire che la macchina era stata dietro vicina a Hamilton con un utilizzo delle gomme ottimo nella fase iniziale, tutto va bene, ma di solito quando uno va ai box prima guadagna un vantaggio, se poi quello che va ai box prima è Hamilton con la Mercedes, già l'accasciamento sul divano, l'esperienza ci dice che ha vinto, l'esperienza dell'ultimo anno, sì, dai, dice, perché veniamo da un anno in cui non ne pigliavamo una chiamate, no. dal muretto, invece ne avevamo anche discusso. È una giornata da filotto questa qui, no? Dove ci sta dentro anche un entusiasmo magari eccedente rispetto i dati di realtà che sono così complessi. Intanto se vi può confortare, il governo si è complimentato, si sono complimentati tutti. Malagò si è complimentato, sì, poi vediamo fra due settimane che cosa succede, magari al primo rovescio. Allora io ringrazio e saluto Giorgio Terruzzi e Leo Turrini. Ciao Giorgio, ciao Leo. Grazie a voi, buona settimana. Ciao. Saluto invece Matteo Bobbi della squadra motori di Sky. Ciao Matteo, pilota. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Da quale voglio la pagella di Giovinazzi, che prima abbiamo ricordato, debutto assoluto in Formula 1, buttato sulla macchina sabato per le prove quasi senza preavviso, molto bene nelle prove, oggi un dignitoso 12° posto. Che voto gli diamo? E io do un 10 a Giovinazzi, perché a mio avviso ha veramente compiuto un capolavoro. Non è facile da pilota essere chiamato in pista direttamente il sabato, quindi saltando tutte le prove libere del venerdì, oltretutto anche il suo lavoro sabato interrotto da una bandiera rossa a 10 minuti dalla fine, quindi non ha neanche potuto provare la qualifica, 1,5 dal compagno di squadra che ha già 3 anni di esperienza in Formula 1, per cui una qualifica ottima, e poi una gara portata a termine senza errori, con dei tempi estremamente buoni, per cui veramente un ottimo debutto. Nuova Formula 1 vi è piaciuta? A me è piaciuta perché intanto c'era tantissimo entusiasmo, perché veramente quest'inverno le nuove regole, macchine molto più accattivanti alla vista, più veloci perché sono veramente velocissime, e non hanno deluso le aspettative la prima gara. È stata una gara, divertente. L'unica cosa, nota negativa forse, è che quest'anno non vedremo tantissimi sorpassi, ma quelli che vedremo saranno veri, saranno frutto di un vero attacco e non figli del DRS come degli anni passati. Sì, non con l'aiutino. Io ricordo i numeri 800 24 00 24, se volete prenotarvi per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666, SMS, WhatsApp. C'è chi infatti ha scritto: si sorpassa soltanto i box, oppure bisogna fare ogni volta la danza della pioggia. Vabbè, questo è un problema che non si riesce a risolvere. No, questa non è una novità, è un problema annoso. E sappiamo che va così. Piuttosto io butterei un paio di secchi d'acqua sul fuoco, anche se non è il momento, è il momento dello champagne e non dell'acqua sul fuoco, perché questa di Melbourne è davvero una pista sui generis, è particolare, quindi è dal prossimo round che vedremo i valori in campo. Sì, c'è anche chi scrive: attenzione, vediamo le prossime 2-3 gare, perché se ci esaltiamo la delusione sarà una botta. No, questo io credo sia, Matteo, non so se come la pensi tu, né da essere delusi, credo sia l'eredità delle ultime stagioni. Concordo anche perché non dimentichiamoci che un anno esatto fa la Ferrari avrebbe potuto vincere a Melbourne se non ci fosse stata quella bandiera rossa causata dall'incidente di Alonso, per cui è vero che Melbourne è una pista particolare, è un semicittadino, per cui i valori in campo li vedremo sicuramente meglio in Cina, ma probabilmente poi anche ancora meglio in Bahrain. Però è sempre meglio iniziare con una vittoria, fa morale, la squadra aveva veramente bisogno di questo, e comunque è una Ferrari molto più solida, più concreta, che quantomeno è in grado di mettere pressione alla Mercedes. Scrive un altro amico che non si firma: a parte la vittoria di Vettel, tutte le variazioni a favore dello spettacolo hanno fallito. Ma sui sorpassi sono d'accordo, però anche Melbourne non aiuta sicuramente i sorpassi. In Cina, con un lungo rettilineo e grandi staccate, probabilmente vedremo già uno spettacolo diverso. Il problema vero è che queste gomme non degradano, e quindi ovviamente è tutto più difficile riuscire a portare a casa gli attacchi in pista. Però è una richiesta fatta dalla federazione, perché i piloti si erano lungamente lamentati di non poter mai attaccare in gara, di dover sempre ricorrere un po' andando alla ricerca di non degradare troppo le gomme, per cui diamo un attimo tempo a questa cosa. Quantomeno degradano di più quelle della Mercedes che non quelle della Ferrari, il trucco è stato un po' lì. Quantomeno è così, per quello che abbiamo visto oggi sì. Grazie Matteo Bobbi. Ciao Matteo. Grazie a Matteo Bobbi. Sì, c'è anche chi scrive che forse il passo lungo della Mercedes può creare più problemi alle gomme del previsto, però siamo solo all'inizio, è presto per capire se la Mercedes abbia sbagliato la miscela tra passo e gomme. Quello che abbiamo visto oggi è certamente qualcosa di molto promettente da qui alla fine della stagione. 800 24 00 24, ci fermiamo per una piccola pausa, poi parliamo della nazionale, della corsa al mondiale, del caso Barzagli che è scoppiato oggi 24 ore dopo che il giocatore ha lasciato il ritiro per motivi familiari, una foto galeotta comparsa sui social. Convocati. Tutti convocati. Antonio scrive al 349-238-6666, Carlo, che Rosberg ha scelto l'anno buono per ritirarsi. Rosberg che questa mattina si è svegliato, ha puntato la sveglia anche lui. Poi ha fatto un video dicendo immensa stima per tutti quelli che alla mattina si alzano per vedere la Formula 1. Vabbè, ma ci mancherebbe altro, la domenica mattina, se ti interessa la Formula 1, qual è il problema nello svegliarsi alle 7 che poi erano le 6? Che in realtà erano le 6. No, in realtà Rosberg ha scelto il momento perfetto per ritirarsi, come avrebbe dovuto fare Ranieri dall'Ester dove aveva vinto lo scudetto, come ha fatto Mourinho quando nel momento stesso in cui ha fatto il triplete. Come spesso fa chi vince la Coppa del Mondo di calcio, di quello che vuoi tu. Cioè, sì, oggi però non c'è dopo, momento dopo aver visto migliore. Dopo 10 giri, anche meno, Bottas ha staccato di oltre 10 secondi da Hamilton. Sai, a me ha preso un po' di nostalgia. Sì, no, ma senz'altro. O abbiamo il duello tra Vettel e Hamilton, oppure Rosberg, non abbiamo nulla. No, Rosberg è un pilota migliore al momento rispetto a Bottas, però ha scelto certamente il momento migliore, ma perché il Moro l'ha tirato scemo. Io continuo a pensare comunque che, nonostante la festa che oggi è giusto dedicare a tutti quanti noi, io continuo a pensare che il grande favorito per il mondiale sia quello che oggi era alla destra di Vettel, poi, quello che oggi è arrivato secondo, e poi capiremo se ha passato, perché c'è stato un errore di strategia o qualcosa. Turrini di più. Ha passato l'inverno alla console a divertirsi, ma sai, eccetera eccetera. 800 24 00 24, Gianni. Sì, buonasera, eccoci. Dai. E complimenti per il programma. Grazie. Senta, io volevo parlare di questa cosa, che non so cosa ne pensate voi, ma io dico la mia. Di questa grossa rottura di scatole che questa sosta nazionale, perché a noi cioè ci, presente, ci falsa la domenica. Beh, ma l'abbiamo riempita con la Ferrari, partite, poi magari la riempiremo con la moto. Io sono d'accordo con te. Ma sono d'accordo con te, l'ho sempre detto, è una sorta di coito interrotto, non... È una cosa noiosa, barbosa, pallosa, che rompe l'inerzia della stagione, che sarebbe meglio concentrare in altri periodi, che ti ripeto, non dà fastidio, dà fastidio ed è noiosa. Poi c'è chi rientra prima e la cosa crea polemiche, ma ne parliamo, adesso arriva Max Nerozzi, ne parliamo. Oggi abbiamo visto la Serie B, allora vi do i risultati perché c'è una nuova capolista che è il Frosinone, che ha vinto 2-0 sul campo della Spal, il duello di vetta, quindi Frosinone 59, Spal 58. E poi dietro c'è il Verona, che è stato fermato sull'1-1 dal Pisa, 55 punti. Ieri il Benevento aveva perso, è stato raggiunto dal Perugia, che ha pareggiato. Oggi hanno pareggiato in tantissimi, 0-0 contro il Carpi. Poi Cittadella 47 aveva giocato ieri, questa sera c'è Bari-Novara, che è una partita interessante per i playoff. E ieri aveva anche perso lo Spezia. Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci. Io volevo soltanto fare due considerazioni. Capisco, da italiano comprendo che ci sia entusiasmo e soddisfazione per la vittoria del Cavallino. Occhio e calma, facciamo i conti con l'oste, perché questa è una gara, come i Panzer hanno già dimostrato, dopo nel calcio perdono 3-0 e al secondo tempo ne recuperano 3 e te ne fanno ancora uno ai supplementari. Sì, capitato anche però... che perdessero 4-3 ai supplementari, Panzer, eh? No, ricordo qualcosa vagamente. No, volevo dirvi una cosa, sì. Ve lo dico con la grande ammirazione e stima che ho per Ferrari. Io ne ho avute 4 Ferrari, l'ultima è la California. Sono passato a Porsche, lo dico non perché Ferrari ha delle imperfezioni che a volte vengono. Ecco, questo ve lo voglio solo dire. Amico mio, è uno che sta bene. No, ma io sono un imprenditore, pago una fucilata di tasse, sono benestante. No, per carità. Cioè, siamo obiettivi, siamo italiani, parliamo di eccellenze, faccio parte nel mio piccolo delle eccellenze che sostiene questo squinternato paese. Meno male. Però le Ferrari hanno qualche imperfezione. Facciamo i conti con l'oste e siamo calme e gesso, perché i tedeschi, benché io li stimi e non li ami, però i tedeschi quando fanno le cose le fanno bene, ma quel pugnetto di Toto Wolff oggi voleva proprio dire quello, cioè la prossima volta non ci fregate più, ma per questo è ancora più bello adesso aspettare 2 settimane alla prossima gara. Grazie Andrea, parliamo di nazionale. Grazie Andrea. De Rossi contro Stracoscia. Spiazzato Stracoscia, Italia in vantaggio al 12° minuto. Segna De Rossi. Segna De Rossi. Sì, noi facciamo insomma quelli più esperti, ma c'è sempre grande partecipazione da parte dei più giovani, quelli che arrivano all'ultimo sono sempre ben disposti, dici tu, ci mancherebbe, però sempre un ambiente molto positivo da qualche anno a questa parte. Colpo di testa di Immobile, poi arriva Bonucci, esulta Immobile. Bisognerà vedere se Bonucci ha toccato il pallone prima che superasse la linea bianca. Intanto Italia 2, Albania 0. Il sistema è passa in secondo piano dal momento in cui tu ci metti la classica cazzimma, come diciamo noi a Napoli. Quindi se giochi sempre così col cuore come oggi, anche le squadre, le partite difficili ti sembrano facili, perché è importante giocare da squadra uniti come abbiamo fatto. Lorenzo e Antonio hanno fatto un'ottima partita, hanno rincorso, come hai detto tu, per tutto il campo la spinta dei loro terzini e ci mettono cuore e anima. È un gruppo tra virgolette nuovo, se posso usare questo termine. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo verso la costruzione che, ribadisco per l'ennesima volta e lo dico adesso, dopo una partita che potrà anche non essere straordinariamente esaltante, ci sono tutti i presupposti perché venga fuori qualcosa di assolutamente importante per l'Italia. Adesso parliamo di nazionale, della rincorsa alla Spagna, che c'è davanti pari punti ma davanti in differenza reti anche in maniera notevole. Appuntamento è quello del 2 settembre, probabilmente a Madrid quando dovremo vincere. Inutile girarci intorno, sperare che la Macedonia ci faccia un regalo o Liechtenstein o chissà chi. Max Nerozzi, ciao. Ciao Max. Ciao. Convocato. Ciao. Non so se possiamo parlare di banalità come il pallone dopo drammi esistenziali tra Porsche e Ferrari. No, hai sentito. I nostri ascoltatori a cui se la passano bene, meritatamente. Mica come te che hai solo Jaguar. Beh, guarda, anche Sacchi l'ultima volta me l'aveva rinfacciato, tu che macchina hai? Io 500L e lui ha una Maserati, quindi vedi che insomma, c'è chi può e chi non può. No, vabbè, ma è una metafora, era una fede. No, certo. C'è anche chi può andare via dal ritiro della nazionale e chi non può. Allora, abbiamo convocato Max Nerozzi anche perché questo è il caso poi scoppiato oggi, per aiutarci a capire se Andrea Barzagli ha lasciato il ritiro semplicemente perché c'era un accordo con la Juve mascherato sotto motivi personali, o se c'era davvero qualcosa di serio, perché poi questa notte è spuntata questa foto su Instagram postata da un DJ alle 3 di notte in un locale di Riccione, sollevazione popolare soprattutto dei tifosi del Napoli, DJ che, di cui non dico il nome così non gli facciamo pubblicità, che poi ha precisato, la foto era stata scattata alle 22, poi Andrea Barzagli è andato via, era lì a cena con la famiglia, non lo so, siamo sempre alle solite, no Max? Beh, ma Barzagli, cioè... c'era un gentleman agreement con la Juventus. Guarda, tra, puoi metterci la Juventus, ma diciamo tra giocatori e il CT, insomma, non nascondiamoci, Barzagli ha 35 anni, gioca 50 partite all'anno, ha fatto il suo dovere con Albania, non avrebbe giocato sicuramente in Olanda. Secondo me non porti uno di 35 anni in Olanda ad Amsterdam per stare in panchina a fare esperienza. Detto ciò, il discorso può anche essere ragionevole. No, ma il peccato originale, nella gestione Giovanni, di un biennio. Giovanni, come dicevi tu, il peccato originale, secondo me, in due paroline, motivi personali, tutti pensiamo a chi cavolo è morto. Me. Pensiamo tutti, ma sai, ma anche a scuola giustificazioni ogni tanto si scrive ancora motivi personali, motivi familiari che sono insindacabili. Se poi questo va a cena o si fa i fatti suoi, io non credo che sia stato, non mi sembra un tipo ballotellesco, anzi non lo è di sicuro. No, guarda, Barzagli, anzi il contrario, quindi vale questo gentleman agreement. Poi a Napoli, però la verità è che siamo qui a fare il conto di chi rientra, perché anche nel Napoli c'è chi è rientrato, non soltanto nella Juventus, e sinceramente è la maniera un po' triste di vivere poi le pause della, per la nazionale, no Max? Ma hai ragione, possiamo dire forse che anche lui è stato pollo, insomma, tornando al discorso di Carmo, nel senso che almeno Fantozzi quando andava al circo in malattia si camuffava, puoi andare al ristorante e secondo me potevi evitarti di farti fotografare, perché sai che ormai i social, nulla è più privato, dopodiché è vero che alle 10, dal punto di vista della Juve tra altre cose non c'è niente di male, perché sai, la Juve lo ha convocato per martedì quando si ritrovano, si torna ad allenare il gruppo liberi. E quindi aveva giorni liberi per rifiatare, come dicevi tu prima. Secondo me se si facessero le cose alla luce del sole sarebbe un po' meglio. Se voi vi ricordate, con Conte ci furono due partite ravvicinate, una per qualificazioni europee, l'altra con Albania forse a Genova. Se voi ricordate, lui fece una convocazione enorme. Si giocò a San Siro, chi giocò a San Siro fu mandato a casa tutti. E l'altra si giocò poi a Marassi, hai ragione. Mi sembra una gestione alla luce del sole in cui non c'è niente di male. Ti faccio un esempio: ad Amsterdam probabilmente, almeno se sarà così dalle prove di stamattina, Ventura potrebbe anche azzardare un 3-5-2 secondo me anche in vista della Spagna, e giocheranno Rugani, Bonucci e Romagnoli. E ci saranno altri cambi, forse anche davanti, Parolo in mezzo al campo. Non vedrei nulla di strano che fai un turnover gigante, un amichevole importante per sperimentare, perché ci sono giovani che quei livelli non ci hanno ancora giocato. L'Olanda non è più l'Olanda degli anni 70 o del 2014, però giochi a Amsterdam Arena, l'Olanda da 50.000 persone, fai esperienza, ma insomma ribadisco, c'è gente che esperienza non se la deve fare, tant'è che forse giocherà Donnarumma e non Buffon. Sì, guarda, c'è un amico che ha mandato un messaggio per dire l'amichevole con l'Olanda servirà soltanto a Raiola per alzare il prezzo del contratto di Donnarumma. Sì, non ha neanche torto, ma magari, a parte il fatto che l'Olanda è una nazionale, ne parlavo prima con Giovanni, in decomposizione in redazione, misteriosamente misteriosamente fuori dall'europeo e quasi fuori dal mondiale. Quindi... Sì, in una situazione complicata, facciamo prima il conto, sono 3 punti dal secondo posto dell'Olanda, la Francia credo oramai sia fuori portata. Però guarda, è vero che all'ultima giornata c'è Olanda-Svezia, quindi giocano in casa, però... Però potrebbero arrivare a quell'ultima giornata senza aver più nulla da dire. No, ma guarda, chiedete ad esempio ad Andrea Zorzi, con Velasco era tutto chiaro, se non ti va di venire in nazionale per un certo motivo, per un certo giro, per una certa convocazione, me lo dici e non c'è nessun problema, è meglio fare tutto alla luce del sole, così evitiamo anche, visto che di polemiche ne abbiamo anche troppe, evitiamo anche questi piccoli litigi, queste piccole scaramucce, sì, col Napoli che dirà è alla vigilia di Juventus-Napoli, di Napoli-Juventus, Barzagli torna a casa, allora noi vogliamo... Sì, a Napoli fanno i conti, Higuain che è stato ammonito, Dani Alves che è stato ammonito tornano a casa, Mandzukic liberato dalla Croazia, Barzagli diciamo liberato dall'Italia... Però tant'è, abbiamo il traffico, mi tengo ancora un minuto Max Nerozzi, perché poi invece proviamo a gettare un attimo lo sguardo su quello che accade nei prossimi 180 giorni, 6 mesi mancano, no? Da qui alla partita con più o meno, da qui alla partita contro la Spagna, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Tutti convocati. Gigione! No, innanzitutto mi manchi, ti volevo veramente congratulare perché 1000 partite. Non lo so quanto merda hai dovuto mangiare, però mamma mia, che fenomeno. Sei una leggenda, in allenamento quando ti vedevo saltare come un bambino di 15 anni, avevo questo qua a fame. Grande, no, ultima cosa. Capitano, hai ritrovato quello che mi aveva disturbato in chiesa? Non ridere, perché è importante. Trovalo e digli di non disturbarmi più in chiesa, per favore. Forza Gigi, grande Gigi! Hey, I love this game! Questo è l'altro grande mistero della domenica. Grande bravo. Ma di che stava parlando Max, tu che sei dentro le questioni juventine? Chi mi ha disturbato in chiesa? Non ho più panni di idea. Vabbè, ma informati fra di loro. Perché a questo punto io sono curioso. Allora, abbiamo detto che mancano poco meno di 6 mesi a quello Spagna-Italia lì. Io mi pare di aver colto un ottimismo, non so se sincero di facciata, sull'idea che si possa andare lì, vincere e prendersi il mondiale senza passare dal playoff. Perché quest'Italia autorizza l'ottimismo, almeno a me ispira grande fiducia, addirittura più della Ferrari che pure ha vinto a Melbourne, però sappiamo che la Mercedes è più forte, eppure quest'Italia vista così a me ispira una tremenda fiducia. Sì, ma c'è da vincere là, probabilmente al Bernabeu. E loro devono comunque battere l'Italia, insomma, vediamo. Avete ragione, nel senso che si respira a Coverciano grande ottimismo tra i giocatori, se lo dicono loro, ottimismo dello staff, e è una nazionale che è cambiata radicalmente da luglio-agosto, quando ha ripreso avventura, che eravamo da discorsi a Winston Churchill, lacrime e sangue. E invece qua ci si fa anche dei sogni, sono illusioni, non lo so, però è chiaro che siamo cambiati molto, insomma non avevamo Belotti, Immobile così, con così tanti gol, ci manca sempre un'esperienza in alcuni uomini, perché insomma se togli Buaco, Juventino, De Rossi e Verratti ad alti livelli, oggettivamente l'avete visto anche con l'Albania, Belotti super, Albania probabilmente non vale il toro, però Belotti ha fatto fatica. E c'è un'area diversa internazionale, Belotti non ha mai giocato una coppa, per esempio Immobile ha fatto benissimo da noi, ma a Dortmund e a Siviglia ha fatto male, oggettivamente. E quindi ci sono dei punti di domanda, però c'è anche veramente tanta, tanta fiducia. Aggiungo, sì, potremmo giocare davvero 3-5-2, a me non esalta, insomma, si è mai fatto il suo tempo, però è vero che la Spagna ha sempre dato grandi frutti, ed è vero anche che Immobile e Belotti a due forse si trovano meglio. Sì, posso dire una cosa? A me, guarda, forse forzo un po', però più della Spagna preoccupa il momento, il periodo. Cioè, hai ragione. È quello. Ma tanto insomma, la settimana in più non gliela danno. Il campionato. Ragioniamoci questo, sopra. Insomma, era un tema che si era aperto immediatamente. Ce n'è anche un altro. Noi abbiamo incontrato la Spagna all'inizio del cammino di Ventura. Io non so, Max, se era possibile posticipare anche il primo match in qualche modo. Beh, perché adesso sarebbe stata una cosa diversa. Lì come fai? Il primo match non lo puoi posticipare, però si può lavorare in modo da favorire, si potrebbe lavorare in modo da favorire la nazionale in vista di quella partita. Si potrebbe, anticipando il campionato, facendo un'infrasettimanale, ma ti dico già che... Impossibile. Cioè, no, è possibile, perché è possibile farlo, però no, non è orientato. No, non lo faranno. Anche perché, aggiungo, ci siamo dimenticati queste settimane di dibattiti, che comunque ci sarà anche quest'anno il primo di Champions League. Quindi sì. Comunque ce l'avrà in mezzo al calendario lì, e quindi è tutto molto complicato. C'è quello, poi, c'è la Supercoppa. E poi, scusate, con la nostra tradizione di calendario, voi ve lo vedete, il campionato che inizia 16 agosto, infrasettimanale, altra partita poi nazionale. Io non ci credo neanche se lo vedo, però magari... No, ma tra l'altro bisogna anche fare un ragionamento, cioè chi propone, non potendo anticipare prima di Ferragosto, di mettere un infrasettimanale tra le prime due giornate per fare diventare tre, onestamente, con squadre che non sono ancora pronte, magari nemmeno completa mercato aperto. Il mercato aperto. Ecco, forse non è nemmeno giusto. No, Max, forse non è nemmeno giusto. Beh, ma altre parti lo fanno, No, l'infrasettimanale d'agosto io no, credo non lo faccia da nessuna parte. Le tre partite in sette giorni io credo non le faccia da nessuna parte. No, però in altri campionati iniziano. Quelli latini iniziano oramai più o meno con noi, siamo allineati. L'anno scorso che ci fu la polemica, solo Inghilterra aveva iniziato presto, ma inizia presto per altri motivi. Gli altri hanno tutti iniziato per come tradizione. Noi. Esatto, grazie Max. A voi, ciao buon pomeriggio, buona serata. Grazie Max Nerozzi, no, perché poi non è nemmeno facile mettere insieme tutte le date, detto che sicuramente i club, se devono fare un favore alla nazionale, cercano di non farlo. Però alle volte non è nemmeno facile. Vi faccio sentire due cose di Manolas invece. Manolas sul suo futuro, cioè sul fatto che a giugno potrebbe andare via. Il mio futuro è a mani della Roma. Se la Roma vuole tenermi, sai che deve fare. Se la Roma vuole vendermi, non posso fare niente. Devo solo guardare il mio futuro. Però il mio futuro adesso è a Roma. Cioè, tradotto tra le righe, insomma, se mi pagano, ecco, resto. Credo che abbia spiegato perché andrà via. Però ne ha detta anche un'altra, che secondo me deve far arrabbiare un po' i tifosi della Roma, perché ha parlato di Nainggolan. Sai che lui ha detto l'estate scorsa di aver detto di no al Chelsea perché si trova bene a Roma, c'è il sole, e invece a Londra piove. Golan non piace la pioggia, però è tra i più forti del mondo, deve abituare pure la pioggia se vuole andare tra le più grandi squadre del mondo, perché lo può fare, è un fenomeno che lo può fare. Che succede a Roma? A tutti piacciono le piogge di quattrini, è inutile star lì, ma è giusto che sia così. Però la Roma non è un club, è una squadra che deve smantellare. No, non è una squadra che deve smantellare, Giovanni, però se arrivano delle offerte alla Roma e ai giocatori alle quali non puoi dire di no, i giocatori se ne vanno. Quindi non è questione di smantellamento. Se il Chelsea vuole Nainggolan e offre a Nainggolan un contratto che magari è il triplo di quello che guadagna a Roma, sono professionisti e fanno bene anche a seguire quello. Abbiamo un'interruzione. Pronto? Sì, buonasera, sono Francesco. La voce conosciuta. Beh, adesso con la musica è ancora più nota. Sono Francesco. Papa Francesco. Oh, santo Papa. Sai che ieri è stato qui, no? A Milano. Non so se avete visto, ma ho riempito San Siro con 80.000 spettatori. Abbiamo visto, sì. Neanche Milan e Inter messe insieme non fanno tutto esaurito come me. Beh, insomma, qualche derby, però insomma, tutto, abbiamo visto, era bello pieno, sì. Tutto esaurito. Spalti gremiti al limite della capienza, pagnolada con tante... bianco e giallo Vaticano. No, ma non era la pagnolada, però era la pagnolada, fanno per l'arbitro, sì. Gli applausi e il coro Francesco, sì. Francesco, scandito da 80.000 tifosi del Papa, sì. Fumogeni della Svizzera, sì, spettacolare. Spettacolare. L'abbiamo presa un po' larga, sì. E dopo cantavano cosa? Un Vaticano, c'è solo un Vaticano. Questa non l'ho sentita. Un Vaticano. Questa non l'abbiamo sentita, no. Senza dimenticare che il tutto esaurito ha portato il record in casa. Sì, magari così mi posso comprare finalmente anche io un bel attico a Santa Marta. Ma no, non c'era il biglietto, Santo Padre, assolutamente, era credo tutto gratuito, sì, quindi la mansarda allora, non se la può comprare, deve attendere, sì. Allora hanno sbagliato alla segreteria di Stato Vaticana, erano così contenti, sì. Avranno capito fischi per fiaschi, come sempre. No, dobbiamo salutarla perché c'è il GR. Allora ci salutiamo, ma col coro tutti insieme. Ma quale coro? Sì. Un Vaticano, c'è solo un Vaticano. Arrivederci Santità. Un Vaticano. C'è il GR, torniamo subito dopo, parliamo del closing della MotoGP. Un bel problema perché dovrò partire in quarta fila, quindi sarà difficile, e anche perché avevamo delle modifiche interessanti da provare e rimaniamo con il dubbio per domani, però questo è, naturalmente partire indietro fa tutto più complicato, però ci proviamo. Tutti convocati. Ricominciamo, tutti ai vostri posti. Convocati. Ci eravamo lasciati venerdì con la penultima puntata di Beautiful, questa meravigliosa saga che risponde alla trattativa per la cessione del Milan. Ieri se n'è aggiunta un'altra. Sì. E adesso ve la raccontiamo nei dettagli e anche con, insomma, cercando di capire che cosa capiterà nei prossimi 18 giorni, da qui all'alba del 14 aprile. Facciamo con Ridge Marco Forrester, Beninazzo. Sì. Se Ridge Forrester Beninazzo ci racconterà finalmente di un closing che sembrava assolutamente improbabile. Marco! Io non sposerò Bridget, non come si chiamava la moglie? Brooke. Sei impreparato. Bridget e Bridget Jones. C'era anche una delle figlie che aveva il nome del padre e della madre. Sì. Claudia Schiattone dice sì. Aspetta, quindi noi ci fidiamo. Avevo delle reminiscenze sulla. Era la figlia di Brooke, me lo ricordo benissimo. Allora, 800 24 00 24. Il patriarca si chiamava chiamare, invece? Ma che ne so, se volete chiamare e intervenire in diretta, 349 238 6666. Eric Forrester. Cede il patrimonio. Eric Forrester, incredibile. Andiamo a casa adesso. Allora, a proposito di quiz, domandone delle 100 pistole, dove ha trovato i soldi, così come ha detto ieri con un comunicato ufficiale Yongon Lee, ovvero i 350 milioni che mancano per chiudere la trattativa e chiudere anche il passivo di bilancio che dal 1 luglio dell'anno scorso i cinesi, che oramai i cinesi non sono più, insomma, si sono impegnati a pagare. Marco? Allora, sicuramente fuori dalla Cina, quindi percorsi finanziari offshore ai quali ci avevano già abituati con la seconda tranche di 100 milioni, si parla sicuramente di un finanziatore, diciamo, nell'area anglosassone, potrebbe essere, ma... questo fondo Elliott, ma ce ne potrebbero essere anche altri, perché Lee Yong ha bussato a diverse porte. Al momento conferme non ne abbiamo, neanche ne smentite, abbiamo, ma conferme non ne abbiamo. Ma possiamo dire però con certezza, stando a quello che ci è stato comunicato ufficialmente dall'ex SEST, cioè l'ex Sino Eurosport, che tale non è più perché è stata sciolta questa società. Ora abbiamo i rossoneri Lux, che Lux sta non per lusso, ma per Lussemburgo, in questa scatola creata appunto nell'ultimo dei paradisi offshore europei, cioè Lussemburgo, e che farà sostanzialmente da tramite tra i soldi che arriveranno a finanziare l'operazione e l'acquisizione proprietaria del club rossonero. Che ci fosse rimasto soltanto Lee Yong Yong, l'avevamo detto da alcune settimane. Questo a riprova del fatto che la sua operazione non è concordata con il governo di Pechino, cioè non rientra in quegli investimenti industriali che la Cina sta facendo anche all'estero sul calcio, e quindi anzi diciamo le sue operazioni hanno parecchio indispettito i cinesi, lo si legge tra le righe di quelle dichiarazioni che sono state fatte dalle massime autorità cinesi, a partire dal presidente della banca cinese. I cinesi sono felpati, non sono di solito persone che dicono direttamente le cose, ma se si sa interpretare quello che dicono, dicono cose molto chiare. E il fatto che appunto questa operazione sia stata disconosciuta dal governo di Pechino è testimoniata dal fatto che quel fondo della provincia di Fujian, Aisha, che aveva dall'inizio, anche dal punto di vista formale, accompagnato Li Yongyong, si sia poi tirato indietro, dimostra quello che dicevamo, che abbiamo detto in queste settimane. Ora ci troviamo di fronte. Lo chiameremo il Milan cinese o il Milan americano? Io ci vedo, Marco, che si arrivi in fondo. Io continuo a vedere un sacco di ombre. Ombre cinesi, è il caso, sai, di dirlo in allora, questo caso. Continuo a vedere un sacco di ombre, poi mandami la piantina della strada dell'oro, che ci andiamo anche io, Giovanni. Guarda, a questo punto facendoci prestare la Porsche dal nostro amico ascoltatore. I dubbi sono sempre più legittimi nel momento in cui noi qui ci troviamo di fronte a un'operazione puramente fatta a debito. Diciamo tecnicamente potremmo chiamarla una sorta di leverage buyout, cioè un'operazione in cui ti compri qualcosa, ottieni finanziamenti e a garanzia di questi finanziamenti dai la stessa cosa che ti stai comprando, che non è un inedito nel mondo del calcio, perché per esempio i Glazer, la famiglia Glazer, gli americani, quando hanno comprato il Manchester United hanno fatto lo stesso è stato fatto da una società che si chiama Fenway con il Liverpool. Però in quel caso tu hai fatto per esempio una grossa operazione a debito, hai preso a prestito dei soldi, ma allo stesso tempo sei riuscito attraverso le fortune del calcio inglese a ripagarlo abbondantemente quel debito, e il Manchester United è diventato, con oltre 700 milioni di fatturato all'anno, proprio quest'anno la squadra che ha il maggiore giro da fare. Qui invece c'è da capire se si può fare questa operazione, ma c'è anche l'altra domanda, Marco, che si fanno i tifosi del Milan, secondo me legittimamente, in questi giorni, in queste ore. Cioè, soprattutto adesso che è ufficiale che Yongo lì è rimasto da solo, non ci sono altri investitori, al massimo ci sono dei finanziatori che prestano, cioè se questo qui ha le spalle sufficientemente larghe, non tanto per arrivare al closing, in qualche modo abbiamo capito, probabilmente ci arriverà, ma per fare tutto quello che serve dopo per far ritornare il Milan al livello che gli compete. Sai qual è la cosa che mi stupisce di più? È che se alla fine avessi fatto un'operazione, diciamo, di vendita ordinaria, nel momento in cui tu vendi poi sono problemi del compratore quanto vuol far valorizzare quell'asset che ha comprato, no? E in che tempi. Siccome invece fin dall'inizio Silvio Berlusconi ha posto tra le condizioni di questa vendita la scelta di un acquirente che potesse garantire, vi ricorderete, insomma, quel futuro glorioso che il Milan doveva riabbracciare, addirittura facendo mettere nel primo contratto, ora bisogna vedere, ma non credo che ci sia in questo nuovo contratto la clausola dell'investimento da 350 milioni in un triennio per potenziare il club, insomma ne abbiamo sentito più volte parlare. Ecco, il fatto che ora la società venga venduta a un soggetto che chiaramente non ha la forza economica individuale per portare avanti l'operazione, e che come dire, avrà sicuramente un business plan importante, ma tutto da dimostrare quanto effettivamente potrà essere messo sul piatto, lascia qualche dubbio, soprattutto perché queste operazioni fatte appunto con carattere speculativo devono portare a dei ritorni in tempi molto più brevi di quelli che invece sono legati per esempio ad investimenti industriali, e parliamo di Suning e Inter per fare l'esempio più vicino che mi venga in mente in questo momento. E quindi il problema è capire quanto riuscirà a investire, a veicolare Li Yongyong sul futuro del Milan, quanto tempo riuscirà a ripagare questi prestiti che ha chiesto, e se assomigliava molto l'operazione di Li Yongyong a quella di Toir. Infatti è quello che è venuto in mente anche a me, può essere un'operazione alla Toir. È un'operazione assolutamente alla Toir, con la differenza, diciamo, che Torino ha intercettato per sua fortuna quello che era, diciamo, il momento di massima espansione calcistica della Cina all'estero, con tante operazioni che hanno valutato molto le squadre, ricordiamo 16 squadre acquistate in un anno e mezzo con oltre 2 miliardi di investimento. Li Yongyong si trova a fare questa operazione in un momento in cui la Cina sta prendendo, come si sta un attimo respirando, no? Sì, c'è anche un'altra differenza, Marco. Toir pagò molto poco l'Inter. Toir pagò molto poco l'Inter. Strapaga il Milan, se le cifre strapaga continuano il Milan, a essere queste. E peraltro, ricordiamo, qui si dice una parte dell'investimento suo per quanto riguarda i soldi, metà invece è frutto di finanziamenti. Quindi in teoria abbiamo già più di 300 milioni di debiti a carico del Milan, più altri 220 milioni che vengono dalla precedente gestione. Insomma, comincia a essere il carico di debiti e quindi di interessi che si devono ripagare ogni anno bello sostanzioso. Quindi capire quanta parte di fatturato del Milan in più tu riesci a produrre, quanta parte riesci poi a non far erodere da questi interessi per investirlo anno su anno, diventa molto complicato. Ora non vogliamo rendere, come dire, la domenica dei tifosi milanisti più triste quella che dovrebbe essere, stiamo semplicemente, insomma, sollevando dei dubbi analitici rispetto a questa operazione, che indubbiamente ci sono, perché le premesse erano tutt'altre, e quando parlo di premesse dico quelle condizioni che c'erano fino al 2 marzo, al 1 marzo. Sì, il punto di partenza di tutto questo. Grazie Marco. Ciao Marco. Grazie a voi, a presto. Grazie Marco Bellinazzo. Intanto vi aggiorno anche sulle partite di qualificazione mondiale che sono in corso, ce ne sono 4 che sono cominciate da poco più di un quarto d'ora: 0-0 Armenia-Kazakistan, 0-0 Azerbaigian-Germania, 1-0 Repubblica Ceca fuori casa contro San Marino, stato appena segnato il gol, 0-0 in quella che è la partita più interessante di questo pomeriggio, Inghilterra-Lituania, che l'Inghilterra deve assolutamente vincere se non vuole complicarsi la vita in testa al suo girone. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Intanto ha segnato la Germania in Azerbaigian, 1-0, raddoppio anche della Repubblica Ceca San Marino, San Marino 0, Repubblica Ceca 2, partite di qualificazione al Mondiale 2018. Luigi da Prato, Luigi. Pronto? Sì, eccoci. Sì, ciao. Volevo chiedervi una cosa, avete parlato ora di Milan, delle preoccupazioni che i milanisti dovrebbero avere del closing, insomma, questa roba qua. Io volevo chiedere invece su un altro fronte, non so se ne avete già parlato anche ultimamente, ma su Paul Baccaglini e sul Palermo. Io volevo sapere, uno, quanto ne sapete voi, due, se quello che sappiamo noi, che insomma cerchiamo di registrare un po' di notizie, quello che ci arriva, sono le stesse notizie che sapete voi, cioè in questi casi la trasparenza che c'è tra voi, la trasparenza sulla notizia qual è? È sempre totale? Questo, insomma, volevo sapere anche un cioè, po' se c'è qualcuno che nasconde qualcosa su Baccaglini. Nascondere allora, questo è un altro punto di vista di vedere la cosa, cioè, la verità, perdonami Luigi, la verità sì. È che Paul Baccaglini è spuntato più o meno dal nulla, ci sta chiedendo se noi sappiamo qualcosa che non vogliamo dire, questo? No, non che volete dire, non sto neanche dicendo questo, sto dicendo che la notizia tra quello che sappiamo noi e quello che sapete voi è la stessa cosa? Poi se voi mi dite che dipende da quello che volete è un'altra cosa, cioè non sto facendo una io ti dico Luigi che mi pare ho capito, ti dico che mi pare che le perplessità su Paul Baccaglini e su un'operazione che non è ancora chiusa, perché non c'è ancora stato il versamento dei soldi, non sappiamo quale sarà la società che si prende il Palermo, quale parte del fondo, perché lui è un gestore di fondi, quindi le perplessità sono state portate ad oggi, abbiamo una conferenza stampa, abbiamo un presidente che sta cominciando a lavorare, che rivendica correttamente dal suo punto di vista anche le ultime scelte, compreso quelle di non licenziare l'allenatore, però qui siamo, e tra l'altro è anche un'operazione che per come è stata raccontata va ben oltre il Palermo e quindi ha sfaccettature che non sono soltanto calcistiche e insomma io credo che si debba raccontare e aspettare anche il momento in cui tutto sarà assolutamente ufficializzato, e ripeto, per ufficializzato intendo non con una conferenza stampa, ma con un passaggio di denaro. Senti, facendo ma quello che si fa in questi casi. Senti Giovanni, ma quelli che ti ricordi dopo il caso Parma dovevano vigilare sulla trasparenza dei trasferimenti dei club, stanno dormendo tutti? No, ci sono le norme, ma finché non si fa il passaggio diventa poi complicato anche chiedere conto. Edoardo da Bologna. Oh, pronto? Eccoci, pronto? Edoardo, vai. Sì, un attimo che mi fermo e tolgo il viva voce. Meglio. Sono appena uscito dall'autostrada. Bravo. Un attimino solo, eh. Sì, aspettiamo. Aspettiamo con pazienza. Eccoci. Ci sei, Edoardo? Viva voce che va via. Che... Pronto? Eccoci, pronto? Dai. Mi sentite? Sì? Dai, bene. Forza, Edoardo, sì. No, volevo rimarcare alcuni punti relativi a ciò che sono scuderie di F1, Porsche. Ho visto che Porsche, poi in tedesco si dice Porsche. Io che sono stato al museo di Stoccarda, che sono possessore di Porsche, ho avuto Ferrari, eccetera. Però ci sono delle piccole cose che alle volte scordiamo di dire, eccetera. La Ferrari, dal mio punto di vista, è una delle migliori macchine al mondo, nel modo più assoluto. Ha un neo. Non è una macchina utilizzabile tutti i giorni. Perché purtroppo. Ma noi vi ascoltiamo con interesse. Neanche diversi altri dinei. Cioè, non è una macchina che tutti possono permettersi. Quello. Anche se uno potesse permetterla, cioè potesse usarla, perché io ne ho avuto una, ripeto. Però, sotto certi punti di vista, per quanto riguarda manutenzione, affidabilità, eccetera, ha delle pecche. Ha delle pecche che purtroppo nell'uso comune non ci sono. Mentre invece io, possessore da 22 anni di Porsche, come dicono i tedeschi, non ho questi problemi. E poi non dimentichiamo, anche con la Porsche non è che vai a fare la spesa, però, perdonami. Io la uso quotidianamente, nessun problema. Ci vado a fare la spesa, ci vado a fare qualsiasi cosa, senza minimo problema. E ho meno difficoltà, ma assolutamente. Non scordiamo però le storie esatte, perché se la Porsche oggi è arrivata a quel livello lo deve alla teoria di Taiki Ono, cioè la Lamb Production, la produzione snella. Quindi c'è dietro tutta una storia di costruzione aziendale. Sì, che però perdonami, no, ce lo so, però perdonami Edoardo, se la Ferrari è il marchio più conosciuto del mondo, insomma, evidentemente avrà fatto una scelta differente, con un'idea differente di come si producono le macchine, anche magari non semplicemente macchine utilizzabili tutti i giorni, però insomma qualcosina gli viene. Certamente sono macchine comunque che non so tu Giovanni, ma io non mi potrò mai permettere, quindi sto ai racconti molto interessanti dei possessori di queste vetture, che sono molto belle, molto molto attraenti. C'è un amico che scrive oggi: è tutti convocati a Monte Carlo. Scattone, per favore, dai l'Iban ai nostri ascoltatori. Intanto ha segnato l'Inghilterra. Il mio è quello di Capuano. Intanto ha segnato l'Inghilterra con tifo. Quindi Inghilterra avanti 1-0 sulla Lituania. Solito stadio di Wembley assolutamente pieno. Ma che meraviglia. Che meraviglia, come al solito. E poi è bello però che anche quello che è successo questa mattina a Melbourne possa riaccendere la rivalità tra la Ferrari e quelli che sostengono le altre case. Intanto 4-0 della Repubblica Ceca a San Marino, sta diventando una goleada. Che ci fa San Marino? Un giorno parliamo anche di queste bizzarrie del calcio moderno, dai. Qualificazioni europee, qualificazioni mondiali, ma di cosa stiamo parlando? Poi vediamo queste partite qui. Con tutto rispetto per i ragazzi di San Marino, ma io le trovo di uno stucchevole mai visto. Cioè, sono spettacoli che andrebbero da bollino rosso calcistico, insomma. Qualche messaggio è arrivato al 349-238-6666. Mi raccomando, non citate tutti i giocatori del Napoli che sono tornati a casa. Abbiamo detto che ci sono, quindi non è solo la Juve che recupera i giocatori prima della seconda partita delle nazionali. Abbiamo detto che è triste che si trascorrano i giorni della sosta a discutere di chi rientra e di chi invece resta con la nazionale. Poi ancora grottesco che si continui a commentare l'operazione Milan come se avesse una minima parvenza di compravendita normale. Mi chiedo cosa dovremmo fare, cosa dovremmo fare di fronte a una trattativa che è una trattativa, quella per il Milan, ed è una trattativa ci che... Ci mettiamo alla finestra e guardiamo la nebbia, Giovanni, aspettando che si diradi, semmai si diraderà, perché comunque io non, in questa vicenda non ho capito quasi nulla. E rimango alle parole di Giorgio Squinzi, che l'altro giorno, oltre a parlare di ciclismo del Sassuolo, ha parlato anche da tifoso milanista, dicendo testualmente: sono sul disperato. Credo che rimanga sul disperato nonostante le notizie giunte nelle ultime ore. E penso che poi qualche domanda si possa fare, come ha fatto prima Marco Bellinazzo. Abbiamo una piccola pausa, ci fermiamo, torniamo subito dopo. 800 24 00 24. Prima di aprire la pagina dei motori vi racconteremo anche qualcosa sulla Serie B, che oggi ha una nuova capolista, perché il Frosinone ha vinto contro la SPAL 2-0. Frosinone primo in classifica e che si avvicina al ritorno in Serie A. Beh, anche la SPAL. Convocati. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Tutti convocati. Un bel problema, perché dovrò partire in quarta fila, quindi sarà difficile, e anche perché avevamo delle modifiche interessanti da provare e rimaniamo con il dubbio per domani. Però questo è, naturalmente partire indietro fa tutto più complicato, però ci proviamo. Oggi è stato un giorno inutile professionalmente, perché non abbiamo potuto girare. La peggiore posizione degli ultimi sei giorni qua, giustamente ieri, e partiamo abbastanza indietro. Giusto che ci hanno provato fino alla fine, ma non c'erano le condizioni per provare. Sono abbastanza rilassato in questo momento, perché fare troppi pronostici è impossibile, un po' per tutti in questo momento. Quindi dobbiamo lavorare, guardare il nostro per cercare di portare a casa il massimo. Siamo terzi, questo sono contento. Partiamo sapendo che c'è un pilota Maverick con la Yamaha che va più forte che gli altri, ma dopo siamo là 3-4 piloti che possiamo lottare per il podio. Sicuramente sono molto contento di partire in prima fila con una seconda posizione. Abbiamo sofferto tanto, no? Nei test e anche nel weekend. Avevamo bisogno di proseguire in questa direzione, capendo se era ancora meglio, se la moto migliorava ancora e diventava più competitiva. La prima gara con la Yamaha ho fatto già la pole, quindi contento. Sarà difficile, perché anche Mark sta lì davanti. Andrea, l'altro Andrea con la Ducati, però comunque mi sento forte, quindi se mi sento bene posso spingere dal primo giro, possiamo fare una bella gara. Allora, vediamo se dopo l'alba rossa c'è il tramonto di rossi in senso positivo, cioè con questa grande rimonta dalla quarta fila. Saluto intanto Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Roby. Ciao a tutti. Allora, vi do conto del warm up, perché oggi finalmente a Losail si può correre, perché ha smesso di piovere, la pista ha drenato. No, appunto, è stato un pessimo inizio di stagione. Comunque Marc Marquez è stato il più veloce nel warm up che precede il Gran Premio di questa sera ore 20. Per quanto riguarda la MotoGP, ha fatto 1:55.728, ha preceduto di 189 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso. Terzo il francese Zarco, poi Espargaró, su Aprilia Maverick Vinales, che partirà dalla pole position. Si è dovuto accontentare nel warm up del sesto tempo con la sua Yamaha. Jorge Lorenzo è nono, dietro anche a Iannone sulla Suzuki. Valentino Rossi ha fatto peggio che nelle prove libere, che poi hanno determinato la griglia. Griglia, dove scatterà dalla decima posizione, mentre nel warm-up di oggi è finito dodicesimo, tredicesima l'altra onda, quella di Dani Pedrosa. Questo è. Adesso vi chiedo di prendere la palla di vetro e di spiegarmi se dobbiamo disperarci o se c'è qualche speranza. Mentre Roberto, microfoni Carlo. Aperti naturalmente anche ai nostri ascoltatori possessori di supermoto, sì, certo. Oltre che di Porsche Ferrari, 800 24 00 24. Ma sai, io, Roberto ovviamente è la nostra voce in tema, io non ero fiducioso sulla Ferrari, mi sono sbagliato, nemmeno Leo Turrini lo era. Su Rossi sono meno fiducioso ancora, almeno in questo avvio di Moto Mondiale mi sembra davvero molto molto indietro rispetto a tutti gli altri. Motivo non lo so. Purtroppo sì, abbiamo visto il warm up che l'hanno raddoppiato, 30 minuti, perché ieri appunto hanno saltato e ha provato tutte e due le configurazioni, anche tutte e due le moto, però dai suoi gesti, dal confronto col box, scuoteva la testa, non era a posto e quindi addirittura peggiorato, quindi partenza in salita per Vale. Sesto Vignales, Giovanni ha detto giustamente, però non inganniamoci, perché ha girato sempre con la gomma usata, mentre invece gli altri hanno provato con la gomma nuova. Dovizioso ha confermato il valore della Ducati, infatti è secondo dietro a Marquez. Marquez è anche caduto, senza danni, però questo vi fa capire quanto ha spinto per essere lì davanti. E Spargarò, Zarco terzo posto, quindi la Yamaha, l'avevamo detto ieri, c'è. La moto è perfetta e molto bilanciata. Ricordiamo che lui è al debutto, Zarco. Quarto è Spargarò, sorpresa anche lì perché è una Aprilia. Poi c'è Bautista con l'altra Ducati. E appunto sesto Vignales, Folger, l'altra Yamaha, anche lui debuttante, settimo posto. Iannone un po' in difficoltà, ottavo. Lorenzo nono, però ha girato bene, ha trovato una configurazione che lo rende più fiducioso, si è visto molto più agile in sella nei cambi di direzione e quindi aspettiamoci magari anche la seconda Ducati dopo Dovizioso, che può essere protagonista. Mentre invece Vale vede una partenza in salita, perché da dietro, dalla quarta fila, recuperare sarà dura, ma soprattutto non è a posto con la moto e quindi sarà una gara. Mi ha fatto un po' specie sentirgli dire in questi giorni: non siamo riusciti quest'inverno a fare il lavoro che dovevamo fare. Beh, scusa, allora io mi maschero da casalinga di Voghera, che Roberto Ungaro sa benissimo dov'è, e domando: sbaglio o Rossi e Vignales, che va come una scheggia, hanno la stessa moto? Sì, hai ragione, è vero, però allora il problema deriva dalla gomma nuova, perché Michelin ha portato questa gomma nuova che è molto più morbida, ha la carcassa che flette di più, questo per avere maggiore impronta a terra quando si è in percorrenza di curva, sì, in piega. Sì, sì. E allora vi spiego tecnicamente, ma cerco di farmi capire. Valentino è uno che entra col freno in mano, quindi quando inizia a percorrere la curva la moto è tanto schiacciata, non lo molla subito il freno, e la gomma in quella condizione è tanto schiacciata e loro sentono instabilità, è come se avesse dei micro movimenti, avete capito? Lì il pilota non ha fiducia, non si fida dell'anteriore e quindi è come se non entrasse come vorrebbe. Invece Vignales cosa fa? Stacca un po' come faceva Stoner, cioè stacca la morte dritto, molla il freno e poi butta dentro la moto. Ma in quella condizione la moto è più leggera, davanti non ha quel carico impressionante perché ha mollato il freno, ed ecco che non sente quel problema. È lo stesso problema che sente Iannone. Dovrebbe cambiare stile di guida, Valentino. Cioè è un problema proprio tecnico. È un problema tecnico di guida. Sì, Michelin che ha portato questa carcassa che è molto più morbida, perché voleva recuperare, la Bridgestone era famosa perché teneva tantissimo col davanti, ha voluto rincorrere con la prestazione della Bridgestone, però c'è questo problema. E allora lì bisognerà capire chi riesce ad adattarsi meglio a questa nuova configurazione, a questa nuova gomma. Però lo stile di Vignales lo premia, cioè lui accusa di meno questo problema tecnico che deriva dalla gomma. Ecco spiegate tecnicamente queste grandi differenze, e Valentino che non può disimparare ad andare in moto, e soprattutto con la stessa moto che ha Vignales. È tutta lì la spiegazione. È difficile però che alla sua età possa anche imparare ad andarci in maniera diversa. Da come ma la sua età ci ha sorpreso in molti modi. Sai cos'è? Alla sua età farà fatica a recuperare, però l'esperienza e per quanto ci ha insegnato, perché ha cambiato parecchio stile di guida, passando da Honda, Yamaha e poi Ducati e poi di nuovo Yamaha, ma quando ha visto le nuove leve che arrivavano dalla Moto2, che guidavano in un'altra maniera, che erano già nati con l'elettronica e non arrivare dal due tempi come ha fatto lui, lui ha proprio cambiato stile di guida. Quindi quel mordente, quella fame, quella voglia, lui ce l'ha. Semmai non ha più quell'incoscienza, quella spregiudicatezza che sì, hanno i giovani, e quelli li vedremo lì davanti, perché Marquez e Vignale lì sì fanno la differenza, a mio avviso. Sì, è quello che ci stavi spiegando, no? Come, proprio come tecnica di guida, cioè Valentino, sì. Valentino arriva lì, tira freno, fa la curva, eccetera. Quell'altro frena, magari stacca un po' prima, però poi butta dentro la moto, butta per terra la moto e... Esatto, esatto. E quindi lì è. Quanto è indicativa questa prima corsa in Qatar con tutto quello che è successo, allora, la pioggia nel deserto, eccetera, eccetera? Cioè, mettiamo che comunque per Rossi non vada benissimo, cosa che io temo. Quanto è indicativa, perché si può fare un raffronto con la Ferrari questa mattina in Australia, ha vinto, sì è vero, ma su un circuito particolare. Ora qui quanto ci dirà, proiettandolo sulla stagione, il Gran Premio in Qatar? Non ci dirà tantissimo, perché è una pista molto particolare, si corre di sera, poi i problemi che ci sono stati con l'acqua e tutte queste cose, però nelle prossime due gare sarà abbastanza la stessa situazione. Si ritorna in Europa e cambieranno le carte in tavola, però iniziare già mettendo le cose in chiaro a livello psicologico, quello sì fa tanto la differenza, capite? Ducati non deve perdere questa occasione, perché una pista così non ci sarà più. Per Lorenzo è fondamentale, ha queste tre date per poter essere di subito lì davanti, altrimenti in Europa saranno problemi. Io spero per Dovi, perché se lo merita, Dovizioso, di portare a casa più punti possibili. Ma il confronto interessante che fra poco vedremo è Vignales e Marquez. Ma credo che Marquez si sia ammazzato oggi nel warm-up anche per dare un segnale, oltre che per testare i suoi limiti. Se le suonano questi, i due spagnoletti se le suonano. È caduto, guarda che cadere nel warm-up è indicativo. Però questo vi fa capire quanto ci ha messo del suo... per dire, oh, comunque sono davanti io, non li lascio fare tutti i primi a questo qua. È anche vero che Vignales però è andato via con la gomma, sempre con la gomma usata, quindi, e di passo è girato fortissimo, era sempre 56, e quindi questo fa già capire che c'è già la testa, cioè non si fa impressionare un Vignales, perché avrebbe potuto cercare mettere la gomma per di nuovo mettersi davanti. E invece io quello che dico, il punto di domanda è nel confronto, perché Vignales non abbiamo mai visto nel confronto, nella mischia carena contro carena, non sappiamo come si comporta, però attenzione, perché Marquez e Vignales se le daranno, e lì devono approfittarne quelli dietro, quelli che sono dietro, quelli dietro. Esatto, tra cui speriamo Valentino, guarda, si vogliono così bene Valentino Rossi e suo ex compagno Jorge Lorenzo, che partono a centrogruppo dalla quarta fila, uno col decimo e l'altro col dodicesimo tempo, e tra di loro Danilo Petrucci, sì con l'altro Ducati, anche lui, speriamo, perché comunque la moto è competitiva e Petrucci deve dimostrare, perché ha già avuto tante occasioni, anche sfortuna è da dire, però è lì anche lui. Attenzione alle due rookie, lo ripeto ancora, Zarco e Folger, con questa moto è impressionante dove sono. Guardate che non c'è la luce su di loro, perché ci sono dei temi, degli argomenti ben più importanti, però le due Yamaha del team satellite, vederle lì davanti in tempi non sospetti, cioè senza questi cambi di moto, senza un Vignales, se ne sarebbe parlato molto molto di più. Poi la gara è un'altra cosa e li vedremo. Comunque la notizia per tutti positiva è che sarà una gara asciutta dopo quello che abbiamo visto, la pista è più dopo lenta, quello che non abbiamo visto, perché ieri siamo rimasti lì ad aspettare. Stai lì però, bravo. Roberto Damiano da Lucca, 800 24 00 24. Damiano, pronto, buonasera, eccoci. Volevo dire, da grandissimo tifoso di Valentino da tantissimo tempo, anch'io come voi ascoltavo fino adesso, non sono molto fiducioso purtroppo, anche se conoscendo le abilità da animale da gara di Valentino, spero in una posizione a ridosso del podio, e non lo so, vediamo un pochino. E certo è che con tutti i giovani, io penso anche l'età di Valentino purtroppo influisca, arrivato ormai alla soglia dei 40 anni, e vediamo, la speranza c'è sempre, anche se la fiducia un pochino meno. Sì, no, ma e poi volevo, se posso, un attimino parlare anche della Formula 1 di stamani, sì. Da impopolare quale passerò, da tifoso di Hamilton, perché ci sta, tengo feed tipo per il pilota, non per la scuderia, ormai da quando seguo un pochino, e penso che grandi colpe stamani, anche da quando sentivo in TV, nelle analisi post gara, un po' di colpa l'abbia anche Hamilton, in quanto ha sentito il primo degrado della gomma della Ultrasoft e non si è fidato e è andato in boxe, come sentivo dalle varie analisi. Perché? Perché la Mercedes oggi si mangiava le gomme. E questo è un dato. Ma sono errori che fai quando hai meno certezze che in passato. E oggi, evidentemente, dopo i primi 17 giri, Hamilton, il tarlo dell'incertezza nella testa ce l'aveva. Forte, si sente così forte da giochicchiare. Ti ricordi l'anno scorso? Poi alla fine non ha vinto il mondiale, però ti ricordi l'avvio di stagione dell'anno scorso? Insomma, sì, poi alla fine non passava ha vinto. Poi alla fine, però, non ha vinto con il mondiale. Rihanna, le uscite con Lindsay Vonn. Quindi poi quando si metterà a fare sul serio lo vedremo. Quanto a Valentino Rossi, Roberto, questo è stato l'anno dei grandi vecchi, sembra l'anno dei grandi vecchi, da Federer, vabbè, lasciamo stare Buffon, a tutti quelli che tornano in auge. Contiamo anche in Valentino, anche se ho paura che il nostro amico tutti i torti non ce li abbia. No, purtroppo non ha tutti i torti, ma speriamo tanto che non sia l'ultima stagione di Valentino. E secondo me ci smentirà se pensiamo questo, perché comunque degli acuti li avrà. Certo, pensare a un mondiale, l'abbiamo sempre detto, l'ultimo treno è arrivato 2 anni fa, quello doveva essere. Sì. E si è perso, sappiamo come. Grazie, sì, Roberto. Ciao, Robby. Sentiamo ciao domani. Ciao, Carlo. Domani. Allora, 800 24 00 24, saluto subito Bortolo Mutti. Ciao Bortolo, mister. Ciao, allora, buon pomeriggio. Devo chiedervi subito un minuto di pazienza perché abbiamo il traffico, poi parliamo un po' di Serie B e torniamo a parlare anche dell'argomento nazionale. Vi do anche i primi tempi delle 4 gare di qualificazione mondiale che si stanno giocando in questo momento. La Germania ha sudato per qualche minuto contro Azerbaigian, ma poi vi raccontiamo tutto. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Quasi finali di primi tempi, partite di qualificazione mondiale, ce ne sono 4 che si stanno giocando, 0-0 Armenia-Kazakistan, la Germania vince 3-1 in Azerbaigian, l'avevamo lasciata in vantaggio con Schürrle, gol al 19esimo, c'è stato poi il pareggio dell'Azerbaigian con Nazarov, 31esimo, Germania che ha sudato per 5 minuti, poi sono arrivati i gol di Thomas Müller e Mario Gomez, primo tempo praticamente finito, vince 1-0 l'Inghilterra sulla Lituania, gol di Defoe, questa è la partita certamente più interessante di questo pomeriggio, e poi stravince 5-0 la Repubblica Ceca fuori casa contro San Marino. Davanti a 8-10 spettatori. Davanti a 8-10 spettatori. Abbiamo Bortolo Mutti invece col quale partiamo dalla Serie B, che ha una nuova capolista. Spal 0, Frosinone 2, Frosinone primo in classifica. Abbiamo visto il figlio di Marchigiani in porta nella Spal, perché Meré è via con l'Under 21, che ha preso 2 gol, credo, senza colpa, no? È anche l'anno dei figli d'arte, oltre che degli Highlander, da Di Francesco a Chiesino, che a me fa impazzire, appunto Marchigiani. Ma assomiglia abbastanza al padre, fisicamente. Sì. No? Mister? Sì, guarda, l'ho visto, l'ho seguito e il primo gol di Ciofani è stata una bella, diciamo, diagonale, un tiro in diagonale. Forse poteva far qualcosina, è rimasto un po' sorpreso, però non, niente di che, insomma. E come hai detto te, effettivamente colpaccio del Frosinone è stata un po' la grande sorpresa di oggi, perché ha messo per me in difficoltà ancora di più il Verona, perché con il pareggio, con il Pisa, che fa fatica a vincere. Fa fatica a vincere e si è aperta un po' la forbice sul secondo posto per la promozione diretta. Io, guarda, non faccio il tifo, però mi piacerebbe da morire vedere di nuovo la Spal dopo un secolo e mezzo calcistico, dopo alcune ere geologiche calcistiche in Serie A. Sì. Sarebbe un po' di poesia, effettivamente, vero, perché vero. Sempre, sia nelle figurine erano dei giocatori, la squadra che delle fu di Fabio Capello, di Osvaldo Bagnoli, di Bianchi. Sì, mi pare che il livello di questa Serie B non sia eccelso dal punto di vista tattico, tecnico anche. No, guarda, insomma, chiunque salirà, io credo, farà fatica l'anno prossimo. Guarda, se te consideri che le neopromosse, la SPAL adesso è di diritto proprio protagonista e potrebbe effettivamente andare in promozione diretta, e altre due, Benevento e Cittadella, si giocheranno i playoff. Per cui tre neopromosse dalla Lega Pro stanno dominando un pochino campionato di Serie B. Qui, cari miei, possiamo allargare il discorso a quanto abbiamo visto quest'anno, che è orripilante. In Serie A, agghiacciante, come direbbe Conte, o da bollino rosso, come direi io, come dico io, perché una Serie A di questo tipo io spero proprio di non vederla mai più, anche se ho i miei dubbi, cioè anche l'anno prossimo. Vediamo quali saranno le neopromosse, le capacità economiche delle neopromosse, però ragazzi... Però guarda, hai ragione, se non c'è la volontà di investire immediatamente, l'unica squadra che quest'anno ha riproposto uno spessore da Serie A, da neopromosse, è stato il Cagliari. Sì, poi sì, tutto sì, il vero, resto vero. È stato un sopravvivere e questo proprio trae mette in difficoltà il campionato, ma sono tutti argomenti buoni per quelli che vorrebbero la Serie A blindata, la riduzione del numero delle retrocessioni, magari anche meno squadre, ma quasi in una stile NBA. Oppure ma stile guarda, NBA, facciamo così. Posso intervenire qua? Sì. Io metterei anche dei play-off, play-out, dare delle situazioni. Guarda la Serie B, nella sua magari pochezza tecnica o difficoltà tecnica, comunque ha per la zona la retrocessione mezza Serie B è coinvolta, perché la Ternana ha vinto, il Trapani sta facendo un recupero in crisi, e mezza Serie B è coinvolta per non retrocedere, ma non una, tutte, perché ci sono praticamente quattro posti ancora disponibili, non c'è niente di scontato, e anche per entrare nei play-off c'è ancora effettivamente spazio. E allora... è una formula bella, interessante, che ti terrà vivo fino all'ultimo minuto il campionato. Certo, certamente. E allora, seguendo Giovanni Capuano e facendo un discorso all'americana, arriviamo alla cessione del titolo sportivo, cioè tu vieni promosso in Serie A, non hai soldi per fare la Serie A, metti il diritto sportivo sul mercato, l'abbiamo visto ad esempio nel basket, un discorso di questo tipo, e chi ha i soldi per acquistarlo lo acquisisce. Possiamo arrivare a questi estremi, possiamo estremizzare pure. Il fatto è che non vogliamo più vedere un campionato come questo, in cui abbiamo una squadra che è l'Empoli, che si salverà di sicuro, e che Capuano lo sa benissimo, ha fatto i 30. un punto nelle ultime 8 partite. Con questo ruolino di marcio tu in Serie B ci devi andare, secondo una legge sportiva. Sì, assolutamente. Saresti già condannato, una media punti assurda. Praticamente l'Empoli potrebbe salvarsi senza più fare un punto, perché le altre... ma infatti, a motore spento, cioè si taglia il traguardo della salvezza a motore spento, è qualcosa di orrendo. C'è qualcosa di questa Serie B che ti sta piacendo? Guarda, mi l'equilibrio. Sta piacendo la spalla. L'equilibrio sicuramente. Però la SPAL è una squadra che ha dato, diciamo, proprio come anche atteggiamento, un atteggiamento da leader, da squadra matura, solida, paziente, che ha fatto il suo percorso anche giocando un calcio un po', non dico antico, per carità, perché il 5-3-2 a me è anche una struttura di tattiche che piace, però con giudizio, sta interpretando il campionato con una capacità, ha fatto l'acquisto giusto, Floccari, è andato a scegliere proprio la persona, il giocatore, il leader che si poteva integrare nel migliore dei modi in un progetto che stava maturando. Flocri l'ha sposata in toto ed effettivamente sta nascendo qualcosa di bello. Vediamo se l'anno prossimo sbarcherà in Serie A e vedremo eventualmente come sbarcherà, e vale anche per il Frosinone, il Verona e tutte quelle che stanno dietro. Grazie Bortolo Mutti. Grazie mister, alla prossima. Piacere. Altrettanto, ciao. Grazie Bortolo Mutti, noi siamo praticamente arrivati in fondo. Allora, capolinea. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Paolo Corleoni, che si sono alternati in regia, Andro Mercù con le sue voci. Tutti i convocati torna domani dopo il GR delle 14, mentre noi ci risentiremo domenica alle 17 a poche ore da Napoli-Juventus. Sì, e ti tocca la schedina con Pardo. Sarà la partita che ci racconterà se esiste vita per il secondo o terzo posto oppure se si chiude anche questo campionato. Venerdì è la schedina con Pardo. A domani dopo il GR. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.